Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore di un festival cinematografico on the road che sarà a Napoli e a Roma il 21 dicembre in Piazza dei Martiri, il 23 dicembre in Piazza del Popolo. Giuseppe, ben trovato. Salve a tutti, sì, è una prima edizione nazionale, diciamo così, perché l'attività è stata già sperimentata l'anno scorso solo in Campania, nelle piazze di Napoli, Salerno e Benevento. Quest'anno sarà la prima volta che questo festival innovativo e particolare uscirà dai confini campani per approdare anche a Roma. Le tappe saranno venerdì 21 a Napoli nel salotto della città, Piazza dei Martiri, e il 23 a Piazza del Popolo a Roma. E sarà un'esperienza assolutamente innovativa a livello europeo e anche mondiale, perché è il primo festival cinematografico appunto on the road. In piazza sarà allestito un track di oltre 100 metri quadri, dove all'interno ci sarà una serie di attività che vanno dalle proiezioni tutti i vincitori dell'ultima edizione del Social World Film Festival, quindi lungometraggi, cortometraggi, documentari, ci saranno dibattiti, incontri, casting, masterclass, realtà virtuale, delle postazioni per vedere delle opere del mercato europeo del cinema giovane indipendente, sarà presentato l'annuario del cinema breve, un romanzo, Le Verità, e quindi insomma ci sarà davvero possibilità per tutti, anche addirittura di imparare, perché con le masterclass che variano dal linguaggio cinematografico alla recitazione, training per l'attore, quindi davvero ci saranno delle opportunità per tutti e tra l'altro anche totalmente gratuite. Ecco, tutto gratuito e raccontiamo anche un po', visto che sono strettamente connessi, il Social World Film Festival. Sì, il Social World Film Festival è, diciamo, l'evento che raccoglie una serie anche di altre attività, per l'appunto il è un evento che si tiene ogni anno d'estate a di frequenza, il presidente onorario è Claudia Cardinale e ogni anno si radunano migliaia e migliaia di spettatori, autori, produttori, registi che vengono a presentare o a fruire delle opere cinematografiche impegnate. Per impegnate intendiamo il cinema come veicolo di messaggi sociali, quei messaggi che interessano la società e ci pongono delle domande che ci fanno riflettere. Non solo il cinema come intrattenimento, ma appunto il cinema come veicolo di riflessione. E negli anni, quest'anno festeggeremo la nona edizione di questo evento, si sono alternati sul palco del Social World Film Festival, che è una piccola locarno, perché le proiezioni avvengono nel pieno del centro cittadino di Vico Equense, che è la città che apre la penisola sorrentina. E a Vico Equense abbiamo anche un museo del cinema che raccoglie 100 opere che sono state realizzate in 100 anni. La Sorrentina, c'è un monumento al cinema dove sono conservate gli autografi perennemente in piazza in bronzo, gli autografi dei più grandi autori che sono venuti a Vico Equense, da Giancarlo Giannini alla stessa Claudia Cardinale, Leo Gullotta, Michele Placido, Ornella Muti, quindi tutti i grandi artisti italiani, ad esempio il compositore premio Oscar Luis Bacalov, che ha tenuto proprio nella piazza di Vico Equense un concerto per tutti, quindi anche per il Social World Film Festival sottolineiamo che la partecipazione è sempre gratuita perché è proprio nell'intento, nell'obiettivo del festival quello di avvicinare quanto più persone alla settima arte e soprattutto alla settima arte come veicolo di messaggi sociali. Quante saranno le proiezioni in queste due tappe? Nelle due tappe del Cinebus saranno decine e decine di proiezioni perché si alterneranno da Napoli a Roma per di almeno una delle sezioni del Social World Film Festival. Il Social World Film Festival ha oltre 11 sezioni sui candidati, quindi film che hanno vinto miglior attore, miglior regia, miglior documentario, quindi davvero ci sarà per tutti i gusti e saranno oltre 20 ore di proiezione in queste due tappe, nelle varie aree dedicate appunto alle proiezioni che saranno di più all'interno di questo track. Quindi è qualcosa veramente di unico e invito tutti i nostri radioascoltatori a vedere le immagini, video e videoreportage dell'anno scorso sul nostro sito www.cinebus.it, dove c'è anche il programma dettagliato di tutte le attività e soprattutto anche tutti i titoli dei film che saranno poi proiettati in questi 2 giorni. Roma e Napoli saranno le prime due tappe, poi che succederà? E poi il Cinebus continua continua e nell'anno, anche nel 2019, continueranno le tappe, si spererà anche di un approdo del nostro passo del cinema anche al nord Italia, dove comunque teniamo sempre delle nostre attività. Ad esempio il 20 dicembre noi continuiamo anche con delle attività internazionali e per l'ottavo anno consecutivo organizzeremo un nostro evento a Los Angeles all'Istituto di Cultura Italiano insieme al Centro Nazionale di Cortometraggi di Torino, dove festeggeremo il giorno più breve dell'anno. Quindi sarà una giornata a Los Angeles che abbiamo tutti nell'immaginario della città del cinema della zona nostra e festeggeremo la giornata più breve dell'anno con una serie di cortometraggi tra i più belli cortometraggi italiani nel mondo e quindi sarà anche una festa internazionale. Quindi il Social World Film Festival ce l'ha proprio nel nome, nel titolo, questa vocazione internazionale non solo in tutte le attività come anche il Cinebus, ci sono opere che provengono da tutto il mondo e quando dico tutto il mondo sono dall'Arabia Saudita, dal Brasile, dal Canada, UK, Stati Uniti, Israele e anche al Cinebus sarà l'opportunità di vedere opere da tutto il mondo, ma soprattutto perché le opere italiane vanno in tutto il mondo e il Social World Festival ha organizzato in 9 anni di storia addirittura 40 eventi internazionali che vanno dall'Australia al Brasile, alla Corea, al Giappone. Sono tutti eventi organizzati insieme alle ambasciate italiane e agli istituti di cultura italiani nel mondo e che hanno dato l'opportunità magari a opere più piccole di poter essere veicolate anche a un pubblico internazionale. Allora, ricordando che tutti gli eventi sono gratuiti, la seconda edizione del Cinebus, Festival Cinematografico on the Road, ricordiamo le prime 2 tappe a Piazza dei Martiri a Napoli il 21 dicembre, Piazza del Popolo a Roma il 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Giuseppe Alessio Nuzzo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.